Oggi è il primo giorno di sciopero per i ferrovieri francesi, una giornata di sciopero che però non sarà unica, bensì continuerà fino a domani e, secondo il calendario proposto dai sindacati francesi, ci saranno in Francia 2 giorni di sciopero ogni 5 giorni, cioè sostanzialmente 2 giorni a settimana dal 1° di aprile fino al 30 di giugno, quindi uno sciopero lungo e duro, tanto quanto è duro lo scontro con Macron. Se si guardano le cifre, già adesso si vede che è uno sciopero piuttosto riuscito e che fa seguito a una mobilitazione, quella del 22 marzo, che ha visto una grande adesione e forti manifestazioni non solo tra i ferrovieri, ma tra tutti i dipendenti pubblici francesi. Le adesioni, da quello che fanno sapere le ferrovie francesi, riguardano il 48% del personale viaggiante e del 77% tra i conduttori dei treni. Questo ha portato alla cancellazione di molti treni. Si parla di solo un TGV su 8 che circola e per quanto riguarda i treni intercity o i treni pendolari si parla di 1 su 7 e di 1 su 5. Se si guardano le stazioni ferroviarie francesi oggi sembrano veramente dei set cinematografici quando non si gira, nel senso che sono veramente vuote. Qual è il punto dello scontro? Macron sta sostanzialmente proponendo, anzi sta facendo una riforma per decreto, cioè senza passare dal Parlamento, per fare il primo passo verso la privatizzazione delle ferrovie francesi. È un percorso che noi abbiamo già visto in Italia, in realtà noi purtroppo l'abbiamo visto negli anni 90 e con tutte le conseguenze che ha avuto. E questo comincia oggi in Francia. Il primo passo è quello di trasformare le ferrovie francesi, tuttora sotto proprietà e gestione dello Stato francese, in una SPA, cioè in un'azienda privata per azioni il cui scopo è quello di fare profitti e non quello di rispondere ai bisogni di mobilità, di merci e persone francesi, a tutto svantaggio, lo sappiamo benissimo noi in Italia, dei treni passeggeri e di tante linee, di piccole stazioni, di piccoli paesi che non sono profittevoli e che quindi non verrebbero servite da un sistema privato. Il primo passo è trasformare in SPA. Poi, come è avvenuto in Italia, si faranno entrare i privati nel capitale e diventerà una società completamente privata, come è successo con altre aziende di Stato. Questo ha 2 conseguenze. La prima è quella che appunto si perseguiranno i profitti e non il bisogno di trasporto dei passeggeri. Secondo, cambia lo statuto dei dipendenti delle ferrovie francesi che oggi sono dipendenti pubblici e che diventerebbero dipendenti privati. Questo avrebbe delle conseguenze non solo dal loro punto di vista di condizioni di lavoro, quelle del pubblico sono più vantaggiose rispetto a quelle del privato, ma avrebbe conseguenze anche sulla sicurezza, da quanto dicono, perché oggi un dipendente pubblico è responsabile, è formato e ha dei doveri tanto sulla sicurezza quanto sulla sua formazione, sulla conduzione dei treni, mentre in futuro una società privata potrebbe decidere di subappaltare o di fare outsourcing tramite agenzie interinali o agenzie per il lavoro e ci vedremo un giorno con dei treni, con tutti i rischi che ne conseguono, gestiti e guidati da persone non adeguatamente formate o da tecnici delle ferrovie che riparano i binari in maniera non professionale e a tutto svantaggio della sicurezza dei passeggeri e dei treni. Questi sono i punti dello scontro. Oggi non scioperano solo i ferrovieri, oggi è indetto uno sciopero anche per Air France, in cui si chiede un aumento dei salari dei dipendenti del 6% contro l'1% previsto dalla compagnia, ma scioperano anche elettricisti e gasisti, come scioperano pure i lavoratori dei rifiuti, che si occupano dei rifiuti. Perché questa grande mobilitazione, che fa seguito già a quella del 22 marzo, a cui parteciparono i dipendenti pubblici francesi con un alto tasso di partecipazione? Perché i punti dello scontro sono 2, al di là di quelli imminenti. Il primo è colpire i sindacati dei ferrovieri, perché storicamente sono il punto di organizzazione sindacale più forte, quelli che si sono opposti con maggiore forza ai governi passati e che sono riusciti in alcuni casi, pensiamo al 1995, quando i ferrovieri bloccarono per un mese, un mese continuativo il paese, riuscirono in quell'occasione là a bloccare le riforme del governo. Riuscire a sconfiggerli, un po' come fece Margaret Thatcher con i minatori, significa sconfiggere il movimento sindacale francese, che è tuttora uno dei più conflittuali del nostro continente. Il secondo punto in questione è colpire una parte dei dipendenti pubblici peggiorando nelle condizioni e lo statuto, per poi passare a un peggioramento generale anche di tutti gli altri. Per questa ragione non solo i ferrovieri, ma appunto anche tanti altri tipi di dipendenti pubblici oggi scioperano. Gli stessi lavoratori dei rifiuti, proprio partendo dalla rivendicazione dei ferrovieri, chiedono che venga creata un'unica società nazionale per la gestione del ciclo dei rifiuti e che questa sia pubblica e che quindi a loro venga riconosciuto lo statuto di lavoratori pubblici, come non è il caso oggi. Quindi un rilancio del lavoro pubblico che è utile a tutti i francesi e un miglioramento della condizione di vita dei dipendenti pubblici.